stili. Per cui siamo sempre lì, insomma, cioè, è un approccio, è sicuramente il nostro è un approccio molto diverso. Quando parliamo di Italian style e parliamo per esempio in particolare delle Pils, non possiamo negare che in giro per il mondo le birre che noi abbiamo portato in giro, i nostri birrai hanno portato nei concorsi, e gli esempi per esempio sulle Pils sono tanti. Non c'è dubbio che hanno creato comunque, tra virgolette, un modo di produrre quel tipo di birra lì, che prima non c'era. Certo. E il fatto che questi prodotti siano andati a raccattare premi notevoli in giro per il mondo ha fatto sì che sia stato anche un modo per far conoscere la maniera di produrre birra non solo quei tipi lì in Italia. E Riccardo ne è un esempio. Cioè, più chiaro del suo, l'hai appena sentito, non direi che non ce ne sia. Quindi è chiaro che per noi era anche importante in un concorso che comunque ha lo scopo di far parlare di birra italiana non solo in Italia, ma anche e soprattutto all'estero, grazie a tutte le personalità che invitiamo, sia anche importante dire, guarda, noi crediamo che per esempio in Italia uno stile dell'Italian Pils esista. Perché i nostri birrai per primi hanno tracciato una strada un po' nuova. Ecco, parlavi appunto dei giudici, vogliamo dare così se vuoi fare qualche nome, magari qualche nome nuovo di quest'anno o qualche conferma, ecco, mi sembra che comunque è intanto riconfermato come presidente Flavio Boero, che salutiamo, che ci ascolterà sicuramente in questo momento. Sì, Flavio è ormai è il nostro presidente di giuria da qualche anno. La giuria non è cambiata tantissimo, abbiamo qualche buon inserimento, soprattutto in termini di bloggers, abbiamo qualche defezione magari dalla parte dei birrai, ma è una fluttuazione molto, come dire, dal punto di vista statistico, sempre molto poco rilevante, perché parliamo comunque quest'anno di una giuria di 36 elementi. Quindi è chiaro che due elementi in più o due elementi in meno non cambiano. Siamo riusciti ad avere Emanuele Colonna del Macchi Siete venuti a fare in giuria, cosa che avevamo piacere anche come dire, a rappresentare la categoria dei pub indipendenti, cosa alla quale noi guardiamo con grandissima attenzione. Abbiamo anche sempre lì a Rimini e poi nei giorni a seguire delle iniziative legate al United Indie Pubs. Comunque per la lista completa dei giurati di quest'anno, dell'edizione 2013 di Birra dell'anno, rimando a tutti i tuoi ascoltatori al sito di Union Birrai in modo che sia più semplice fare valutazione anche sulla composizione della giuria. Per noi è molto importante cercare ogni anno di coinvolgere qualcuno, qualche personalità nuova, possibilmente che venga dall'estero. Perché tutte le volte che riusciamo a fare questo, poi abbiamo dei buonissimi risultati in ricaduta per tutto il movimento. Quindi anche quelli che ormai sono i giudici che praticamente partecipano dalla primissima edizione, che fanno parte dell'EBCU, quindi l'Associazione dei Consumatori di Birra Europee, loro, per esempio, sono persone che dei nostri prodotti parlano da anni in maniera veramente molto importante. Quindi per noi è veramente fondamentale coinvolgere persone che magari fino a ieri non ci hanno seguito oppure hanno semplicemente sentito parlare di noi e vengono in un'occasione, secondo me, unica, 500 birre in concorso e legato comunque alla fiera che rimane la più importante per noi in Italia della birra artigianale che è Selezione Birra. Eccoci ancora con Birradio, ancora Simone Monetti, direttore operativo di Union Birrai al telefono con noi. Quindi Birra dell'anno, il concorso non è solo una vetrina nazionale, ma paradossalmente si trasforma anche in vetrina internazionale grazie anche all'azione dei giudici, no?